storia di un grande amore, bianco che abbraccia il nero. Può andare. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Che la mette forte e tesa subito, Siri! Tiro 1-0. Apertura dalla parte opposta, prova a farsi vedere Iago Falche, il traversone per Dzeko che prende posizione di Dzeko, 2-0. Parte Sansone a rete, Sansone, gran gol, il vantaggio del Sassuolo. Juventus dovrebbe, e tutti noi dovremmo cominciare a mostrare dei segnali di consapevolezza guardando la classifica e rilevando che siamo 14esimi o 15esimi, no? Per cui questo sta a significare che dopo due o tre gare può essere anche un caso, dopo 10 non lo è più. E visto che non lo è, un approccio e un primo tempo come indegno come quello che abbiamo fatto oggi è un qualcosa che sicuramente dobbiamo evitare. Occhio Alessandro, poi Cuadrado, e il gol del 2-1 al 94esimo, come un anno fa, da Pirlo a Cuadrado. Centrale Zaza, movimento di Zaza, su Koulibaly, poi il sinistro, Simone Zaza, 1-0 per la Juve al 43. Parti cross verso Pogba, la mette giù, prova il tiro, rete, scavalcato Donnarumma, Juve in vantaggio, Pogba! Secondo me questo è uno scudetto epocale per l'importanza, visto che è il quinto consecutivo, e per come insomma l'abbiamo vinto con una rimonta, secondo me, incredibile, impressionante, che mi auguro insomma non si sia fermata alla vittoria di Firenze, ma prosegua anche in queste ultime tre gare per suggellare, secondo me, una stagione irripetibile. Ecco qui il film dello scudetto, film sonoro dello scudetto. Ringrazio Giorgio Luca, il nostro autore, e Federico Bini in redazione, c'è Gianmarco Ferronato in regia. Cioè, Pardo che è su un treno non per Juma, neanche per Leicester, ma per Manchester, mi pare. Sbaglio? Sì, buongiorno. Sì, no, sto arrivando. Ho volato su Birmingham. Ma di meno, ma sono volato su Birmingham e sto arrivando a Manchester, dove stasera c'è City Real. City Real questa sera. Prima esatto. Semifinale di Champions League. Allora, dopo Reggio Emilia, dopo quelle parole di Buffon che parlava di approccio indegno eccetera eccetera, ma sono diventate ormai quasi un'icona soprattutto per il popolo bianconero, c'era chi diceva che la Juventus era una squadra da sesto posto, non di più, e chi invece azzardava che avrebbe vinto lo scudetto con 10 punti di distacco, era Claudio Zuliani. Buongiorno ragazzi, buongiorno. Mi sono sbagliato, chiedo scusa a tutti, sono 12. Sì. Non fare lo sborone, però, perché, dodici, perché quel giorno, quel pronostico poteva venire solo da un tifosaccio come te, non da qualcun altro. No, non è vero, perché le cose azzardate invece sono anche ponderate a volte, poi è chiaro deve andarti bene parecchio, però io ero tra quelli che avevano mosso anche delle critiche a Allegri per le prime giornate, poi si è mosso da solo lui, no? Padoni regista, eliminato Napoli, Hernanes, tutte queste belle faccende qua. Quando però Buffon ha richiamato la truppa davanti alla telecamera e ha fatto quel discorso che in cui in parte tu hai fatto sentire prima, mi sono detto ragazzi, qua cambia tutto e lo possiamo vincere, perché la rosa della Juventus comunque ha dimostrato che è superiore alle altre al momento. Sì, ci vuole però qualcos'altro oltre ai discorsi della corona, no Pardo? Perché quanti ne abbiamo sentiti in questi anni? Ci vogliono i fatti, non le parole, insomma. C'era la Jalapas che faceva una rubrica di sulle ultime parole famose, sì, una ventina d'anni fa, no? Su tutte le frasi che vengono dette vinceremo, reagiremo, trionferemo, faremo, cambieremo, ecco. E poi queste cose quasi sempre non si realizzano, qualche volta sì, ed è la differenza tra le grandissime squadre e quelle che non lo sono. Io credo che la Juve sia la più forte del campionato e credo soprattutto che, oltre a essere più forte di tutte le altre dal punto di vista del talento, sia soprattutto più forte dal punto di vista dello spirito, dell'abitudine, della personalità, che sono tutte cose immateriali, abbastanza indefinibili, ma che poi alla fine segnano la differenza tra chi vince e chi no. Quindi sì, secondo me c'è poco da fare, c'è poco da discutere. Poi si potrà discutere sul calcio italiano, dove probabilmente una striscia di successi così 20 anni fa era impossibile, perché oggi hai squadre, sicuramente la differenza tra le grandi e le piccole è aumentata. Però questo non toglie nulla a uno scudetto, penso sia il più bello dei 5 per la Juve. Sì, sono d'accordo, il più significativo, il più sofferto. Sì, possiamo allargare il discorso che facevi prima al calcio mondiale, perché cose di questo tipo ormai le vediamo anche in Spagna, in Germania, in Francia, eccetera, eccetera. Però queste sono distorsioni del calcio contemporaneo, io credo, Pierluigi, ma è un discorso che abbiamo fatto un sacco di volte. Zulla, strana festa in contumacia, eh? Intanto invito gli ascoltatori juventini e non 800 24 00 24, compreso chi scrive che Radio 24 è diventata una radio faziosa renziana che sostiene banche multinazionali mondiali. Non so se in questo multinazionale mondiale è compresa anche la Juventus, che noi non sosteniamo, ne stiamo semplicemente parlando. Comunque, io conto il rosso in banca, è la mia discorso. Io anche. Strana festa in contumacia. Mi ha chiamato il direttore ieri, gli ho detto: ma non ce l'ho in bianco e nero il conto. No, è il rosso. È che. Strana festa in contumacia regalata da Nainggolan. Era il 25 aprile, era impossibile. Nainggolan ha regalato questa gioia. Sì, questo è poi il strano, è proprio uno dei giocatori più critici nei confronti della Juventus, uno dei più polemici. Visto. Ma lui in fondo che è un po' come Zeman, avrebbe voluto venire ma non ce l'ha fatta e quindi ha pensato di fare un gol scudetto. Sì, ha pensato di fare un gol scudetto a una squadra che poteva, sarebbe potuta essere sua. Conte non ha mai nascosto questa cosa. Era infatti, secondo me se lo porta al Chelsea, io credo. Guarda un po', se lo porta al Chelsea. Credo che Nainggolan sia stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso nel rapporto tra Conte e la Juve. Cioè a gennaio dell'ultimo anno di Conte lui aveva chiesto Nainggolan, era in cima ai suoi desideri e ai suoi pensieri. Roma ha vinto quella battaglia di mercato con la Juve, probabilmente nella testa di Conte la Juve poteva fare qualcosa in più per accontentarlo, e quindi è abbastanza paradossale e abbastanza curioso che poi sia stato Nainggolan a segnare il gol dello scudetto della Juve di Allegri. Però con Allegri invece il vaso non trabocca mai, tu vedi, chiedono un trequartista, prendono Hernandez all'ultima giornata, chiede giocatori che poi non arrivano, e lui invece piantare casino, furbo zitto. Posso approfittare per fare un appello ai dirigenti delle altre squadre, che vedo che tutti cercano un trequartista. Hernandez, voglio dire, se qualcuno lo volesse prendere per importare la sua rosa e magari, cioè, potrebbe essere a disposizione, voglio dire, cioè, non fatevi paure strane, vivete. Cioè, vivete questo sogno. Zul, posso dirti, per salutarti, una cosa che non mi è piaciuta invece? La maglietta e lo scudetto con sta solito 34 che... Perché, scusa? Perché adesso basta, fai festa. No, ma io sono d'accordo con te, però la gente dovrebbe sapere le cose. Il Tribunale Penale di Napoli, non sportivo, penale, ha detto: campionato regolare nelle motivazioni, Juve assolta. Quindi se la Juve assolta, che va per regolare, sono 34. A me spiace per gli altri, ma credo di essere una ragione. Vabbè, dobbiamo riaprire questo capitolo. Magari un altro giorno non finiamo più. Nessuno, c'è poco da fare. Siamo ancora naif, ogni tanto facciamo questa domanda. Ieri sera è successo al Maracanã, diciamo a Roma, d'accordo, ma... Bughini è un tema irrisolvibile, è una polemica irrisolvibile, non ha alcuna soluzione. No, poi lo facciamo sentire anche lo scherzo tra Cordoba e Bughini ieri sera nel tuo salotto. Intanto ringrazio Claudio Zuliani, a presto. Ciao Zul, buona ragazzi, festa. Grazie, invidio molto Pardo che fa una partita dove potevamo sicuramente esserci noi. Sì, e questo l'ho pensato anche io prima, scrivendo una cosa, dicevo: questa sera potrebbe girarsi ulteriormente il coltello nella ferita, perché continuo a pensare che la Juventus sia più forte della squadra che questa sera giocherà in casa e che Pardo racconterà per Mediaset. Ci fermiamo per il traffico. Tutti convocati. Convocati. A sinistra c'è Pogba, viaggio veloce Pogba, accompagnato da Khedira, Pogba la mette in mezzo, Dybala, parte il tiro, rete, Dybala, la Juventus è in vantaggio. Sapevo che non era facile far dimenticare Tevez per quello, tutto quello che ha fatto. Sicuramente lui ha vinto tantissimo qua e mi piacerebbe farle come ha fatto lui. Spero di poter fare ancora un gol per raggiungere il record che ha fatto lui sul primo anno. Dunque, ogni allenatore ha un mentore, una figura di riferimento. Come sapete, quella di Max Allegri, questa figura per Max Allegri è quella di Giovanni Galeone, che saluto e ringrazio. Ciao mister. Ciao, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Pardo, sei arrivato a Yuma? No, a Manchester. No, ma fra un'ora arrivo. Sono stato a Wolverhampton. A Wolverhampton. Lo ricordi? Come no? Come no? Indimenticabile giocatore che ha vestito, che i tifosi dell'Inter continuano a rimpiangere. Mister Allegri, due stagioni diverse ma vincenti entrambe, una da dominatore, l'altra da cacciatore. Quale sì. Dà più soddisfazione? Ma guarda, io la mattina faccio rassegna stampa, no? Sì. La mattina sul foglio c'è un articolo del direttore del TG1, Mario Orfeo. Io inviterei a leggerlo. C'è esattamente quella che è la storia di Max Allegri e le verità vere di quello che è stato il calcio negli ultimi 4-5 anni, compreso il periodo milanista. Sì. Cioè, finalmente io leggendo questo articolo ho detto, finalmente uno che non mi parla della Juventus di Conte e del prosieguo del lavoro di Max Allegri basato sul lavoro di Conte, eccetera, eccetera. Se ci sono due allenatori, gli antipodi, sono Allegri e Conte. Allegri. Allegri non c'entra niente con Conte. Ma non c'entrava niente neanche l'anno scorso, mister, perdonami. Bisogna essere in malafede per dire ancora che questa Juventus è il prodotto del lavoro, allora, di Conte. Ti dispiace se ti faccio un esempio. Allora, noi giochiamo contro la Spagna a Udine, facciamo una discreta partita, andiamo in Germania, non ce la fanno mai vedere, perdiamo 3-0. Il commento di Conte, tecnico, ti dico testualmente, il giorno dopo è: a questi livelli ci vuole grinta. Allora io dico basta, io dico i fratelli Coen hanno già fatto grinta, Hathaway l'ha già fatto, John Wayne, Sturges, tutti quelli che hanno fatto il grinta, adesso facciamo grinta 3 con Antonio Conte. Allegri non ha mai parlato per sua di grinta. Allegri parla di possibilità di passaggio, di scelta di passaggio, di velocità di passaggio, di miglior tecnica difensiva, togliere percentuali di errori gratuiti. Allegri parla di calcio, quell'altro parla di grinta. Infatti in Italia vince e in Europa non vince niente. Contro il Galatasaray, che non aveva vinto neanche la Coppa del Nonno, e contro la squadra danese, che non aveva vinto niente. Poi va in Europa e viene fatto fuori dal Benfica. E allora cosa c'entra Massimiliano Allegri, che va in finale col Barcellona e che purtroppo per lui, purtroppo, ha letto non benissimo per la prima volta nella sua vita una partita e dopo aver fatto un capolavoro non si è rigiocato la finale con buone chance di vittoria quest'anno in Champions. Ecco, questa è la mia lettura del lavoro di Allegri. Sì. Non c'entra niente col lavoro di Conte, ma proprio niente. E quest'anno ha fatto un autentico capolavoro. Pardo, mica ci ha dato giù leggero il mister. Sì, a me devo dire che il maestro Galeone mi ha scavalcato a sinistra. Io parlo tutti i giorni in questa radio, sapete come la penso, sapete che è la cosa che spesso sentiamo dire anche con lui, che il merito era sempre di qualcun altro. Qualche volta post partita, quando gli aveva incontrato, gli diceva: vabbè, oggi hai vinto perché è merito di Caipredi, perché è merito di Tramazzoni, perché è merito di Lippi, perché sembrava sempre che le vittorie fossero degli altri e le sconfitte fossero di Allegri. Francamente mi sembra un po' ingeneroso nei confronti di Conte, rispettando perfettamente il giudizio del mister, perché penso che Conte abbia avuto dei grandissimi meriti nella costruzione di questa Juve. Però sono d'accordo che Allegri si sta mettendo nel suo. Sono convinto che Allegri, dopo anni di grande utilizzo, di grande intensità di questo martello straordinario dal punto di vista appunto della grinta del Conte, sia riuscito a tirar fuori delle cose diverse da questi giocatori. Quindi penso proprio che sia stato l'allenatore giusto per la Juve degli ultimi anni, perché e penso che la Juve sia uscita da questa cosa, come diceva ieri Zampini, grazie alla calma. grazie alla serenità, perché 12 punti dopo 10 partite può salvare soltanto un allenatore molto sereno, ancelottiano, secondo certo. E una società, che lo conserva, che lo conferma quando, tagliano le teste per molto di meno, e dei grandi giocatori. A proposito, volevo chiedere a Giovanni Gaglione se aveva cambiato idea su Dybala, perché una volta ci eravamo parlati e mi dicevi: ma a me non sembra un fenomeno. No, non lo è. Non è un fuoriclasse, è un ottimo giocatore che è diventato fantastico per via del lavoro di Allegri, che lo ha modificato. Invece di farlo giocare prima punta come giocava a Palermo con Vasquez dietro, l'ha fatto giocare in pratica trequartista, gioca molti più palloni, ha una tecnica sovrafina, sa tirare in porta, ha margini di miglioramento fantastici. Ora dire che è un fuoriclasse non lo è, perché i fuoriclasse sono Messi, sono il primo Ronaldo, sono altri, insomma. Però è un grandissimo giocatore, su questo non c'è dubbio. Però volevo chiarirti una cosa, guarda che io con Conte assolutamente non ho niente. Conte ha rappresentato esattamente per 3 anni quelle che sono le peculiarità tipiche, proprio fortemente caratterizzate della Juventus. Lui è stato giocatore per tanti anni e ha portato lì quella determinazione, quella voglia, quella professionalità, quelle cose che sono tipiche proprio della società Juventus. Su questo tutti i meriti assoluti, ma quando si parla di calcio, se si avvicina Conte ad Allegri sono due cose totalmente diverse. Tecnicamente sono due cose diverse. Adesso addirittura Sacchi che dice che deve coniugare i verbi in una maniera che lui ne coniugava 3, Max è capace solo di coniugarne 1. Queste sono tutte cretinate che possono dirlo loro, perché loro sono i santoni del calcio e qualsiasi cosa dicono va tutto bene, ma non è così. Non è così, perché Max quando giocava male all'inizio del campionato diceva chiaro e tondo che la squadra giocava male. Sì, anche perché non si poteva dire diversamente. Ma fa bene secondo te a rimanere alla Juventus o dovrebbe a questo punto ascoltare altre sirene? E poi aggiungo, che cosa manca alla Juventus per vincere la Champions League? Non tantissimo, quest'anno ti dico, secondo me aveva grandi possibilità di vincere la Champions, anche perché andava a incontrare delle squadre che Max aveva già battuto, il City, il Real Madrid, l'Atletico, aveva grandi possibilità, purtroppo quei 10 minuti stupidissimi tra il 70esimo e l'80esimo gli ha rovinato questa festa, però non manca moltissimo, e hanno dimostrato di essere una squadra europea, cosa che non lo era prima, l'anno scorso va arrivando in finale e quest'anno andando molto vicino ad arrivarci di nuovo. Sì. Però qualcosina è chiaro che devono prendere. Ora sento tanti nomi, molti sono sballati secondo me. C'è bisogno di forse un centrocampista e credo che i nomi che vengono fatti, tipo Gundogan, siano giocatori di assoluto valore, ma se no andranno in cerca di altri. Però 2 o 3 giocatori la Juventus li deve prendere e deve soprattutto migliorare tecnicamente ancora su quelle cose su cui insiste molto Massimo, che sono appunto di togliere delle percentuali di errore gratuiti, quelli che faceva l'anno scorso Pogba, che molti ne ha limati, quelli che ogni tanto continua a fare Dybala, che molti ne ha limati, e quelli che purtroppo ogni tanto fa Bonucci, vedi l'ultima partita. Da limare c'è poco, certe volte bisogna limare, perché la Juve che vinceva quando aveva Ferrara, Cannavaro, Turan e Zambrotta, o Milan di Tassotti, Baresi, Costa Curta e Maldini, facevano un errore a campionato singolo e uno di reparto, il massimo che concedevano. Sì. Fa bene a restare alla Juventus. Europeo deve diventare così. Mister, fa bene a restare alla Juventus o a questo punto dovrebbe secondo te provare altre esperienze, magari su grandi panchine ovviamente, perché ormai è un top coach europeo. Se è contento lui, benissimo. Io gli ho riproverato dopo il Bayern, che il giorno dopo, dopo una partita del genere, dopo uno spettacolo veramente come quei 70 minuti del Bayern, io gli ho detto: guarda Max, mi hai impedito di conoscere Cristiano Ronaldo, perché io avevo già fatto il biglietto pronto per Real Madrid, perché da domani allenavi il Real Madrid, cosa stavi a fare ancora in Italia? Gliel'ho detto buttando gli ali, però effettivamente quello che ha dimostrato quest'anno Max in Europa credo che sia negli occhi di quelli che propongono, diciamo così, gli allenatori alle migliori squadre d'Europa. Questo non c'è dubbio, è uno dei primi 5 in Europa, senza alcun dubbio. Sono d'accordo. Grazie, mister. Grazie. Grazie a presto, voi. Un abbraccio, Giovanni Galeone. Grazie davvero, come sempre. Pierluigi, ci fermiamo un attimo. Ha detto cose molto interessanti, Galeone. Beh. Invitiamo anche gli ascoltatori a riflettere, a chiamare. Molto sfumato. È andato giù leggero tra Sacchi, eccetera. E la nouvelle vague degli allenatori. Allora, Borsa, torniamo subito. 800 24 00 24, il numero verde. Spot per noi, torniamo subito. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti Convocati. Dybala, stop a seguire Dybala, Tatarusanu, e poi 2-1 Juve, Mandžukić, 2-1 Juve, sulla corta respinta di Tatarusanu. Una stagione straordinaria, anche perché abbiamo ancora da onorare il campionato e soprattutto da prepararci per la Coppa Italia. Per quanto riguarda il campionato, credo che dopo 10 partite avere 12 punti e fare 24 vittorie su 25 credo che sia una cosa quasi irripetibile, anche se magari nel corso degli anni un'altra squadra potrà far meglio, magari sarà la stessa Juventus, però la forza è stata quella di non pensare a dove potevamo arrivare, ma a pensare partita dopo partita. Primi ascoltatori, sempre questo film sonoro della stagione juventina, primi ascoltatori di oggi, Saverio Parma Alessandro, Reggio Emilia. Buongiorno Saverio. Ciao, buongiorno, complimenti alla trasmissione e soprattutto complimenti alla Juve per il quinto scudetto consecutivo. Io volevo fare una considerazione così. Ieri in tutte le trasmissioni sportive di ieri e di oggi non è stata detta una cosa gravissima, secondo me, che per la prima volta nella storia del calcio, penso calcio mondiale, sia stato assegnato uno scudetto a una squadra mentre si stava allenando. Io proporrei un minuto di raccoglimento. Già capitato, comunque, di vincere scudetti in contumacia. Io proporrei un minuto di raccoglimento e per riflettere e per l'ennesima morte del calcio. Ah, il deceduto sarebbe il calcio? Il calcio è deceduto. Ma perché mi... Non ho capito. Qual è il problema? Pier, stai dicendo... Che c'è di brutto? Che c'è di brutto è che le televisioni avranno pure messo in chiaro il calcio, ma hanno oscurato la passione dei tifosi. Cioè, dei tifosi di chi gioca, perché ho giocato a calcio. Sì. E certamente. Ma ormai Saverio, ormai da tempo è così in tutto il mondo. In tutto il mondo. Cosa? Voi che avete le radio, le televisioni, che potete parlare a miliardi di persone. No, ho capito, facciamo però qualcosa, ma cosa vuole qualcosa. Ma cosa vuole fare? Cioè, funziona questo calcio. Funziona così, che, ma è successo altre volte. Abbiamo visto in molti casi vince lo scudetto in contumacia. Sì, che è appassionato di calcio. Io sono appassionato di calcio, io vivo nel calcio, non è che appassionato di calcio. Però io non dirò tifoso del Che partita ha visto in questo weekend? Io non ho visto nessuna partita, mi rifiuto di guardare le partite in televisione, che vado allo stadio, per dirlo su. Io non sono abbonato a nessuna televisione perché mi rifiuto di andare a guardare le partite. Io vado allo stadio. In quale stadio è andato in questo weekend? Ieri non sono andato allo stadio perché il Parma è in Serie D. Sono tifoso di un'altra squadra che gioca in Serie A, che sta andando molto male. Però io sono soprattutto un tifoso di calcio, vado allo stadio quando avevo 5 anni. Sì, e meno male che c'è ancora che ci va allo stadio e che non smetterà mai, nonostante le televisioni, che non sono il male assoluto. È una insomma un qualcosa a cui siamo ormai abituati, ma quante volte abbiamo visto, diverse volte abbiamo visto lo scudetto assegnato in contumacia mentre una squadra giocava e l'altra faceva l'allenamento. Ma soprattutto secondo temo che ci si debba abituare. Sono d'accordissimo sul fatto che andare allo stadio quando è possibile, quando i soldi te lo consentono e la logistica te lo consente, sia l'esperienza più bella in assoluto, non c'è nessun dubbio. E come ho detto mille volte, nessun televisivo, nessuna persona, nessun dirigente di... Io ho lavorato a Sky e Mediaset, nessuna persona dirigente di Sky e di Mediaset ha mai minimamente pensato che uno stadio vuoto fosse più attraente di uno stadio pieno. Quindi lo stadio pieno è una garanzia da tutti i punti di vista, anche per chi, tra virgolette, vende televisivamente la partita. Quindi gli stadi pieni sono una cosa bellissima, e il consiglio per chi può e chi ha la possibilità, i soldi, è di andarci. Detto questo, io credo che in un weekend come questo, un weekend lungo come questo, un appassionato di calcio abbia potuto vedere 5-6 partite grandiose. Sì. Abbiamo visto, siamo partiti sabato sera con Inter-Udinese, abbiamo visto Fiorentina-Juve, abbiamo visto ieri Roma-Napoli, poi c'era del tutto normale, abbiamo visto l'Ester, abbiamo visto il Tottenham ieri sera. Questa favola che l'appassionato di calcio preferirebbe le partite tutte in contemporanea, per me, scusate, ma è una gran cazzata. Appassionato di calcio, uno che è un appassionato di calcio, è uno che vuole vedere il calcio. Poi è ovvio, no, più che altro, può essere cazzato, no, ma è qualcosa di superato dai tempi. Non si gioca più la domenica pomeriggio alle 2:30, non si giocherà mai più. Allora è superato dai tempi. Non vuol dire che sia giusto, però è giusto, secondo me. Cioè, è giusto, secondo me, a parte che quello che succede in tutto il mondo, in Inghilterra, sappiamo che con gli orari combinati e con le partite che vengono senza grandi polemiche posticipate, con calendario strano che hanno in Inghilterra, queste robe qui ci sono da anni. Sì. Può capitare tranquillamente di vincere un campionato senza giocare. Ma chiaro, ti ripeto, non è la prima volta. Mi fate sentire cosa è successo ieri sera a Tiki-Taka tra Mughini e Córdoba? Il giudice sportivo ha detto che non eravate affatto gli onesti, ma che era prescritto il reato. Lo dice la giustizia, e per me conta quello, basta. Appunto, la giustizia ha detto questo, che era prescritto il reato. Lo scudetto ce l'ho a casa, bello, e me lo tengo stretto. Beh, se lei si accontenta di uno scudetto di merda e di cartone, no, io che ci posso fare? No. Adesso dai, ci posso fare, voglio dire, adesso no, ma lei è un grande campione, Córdoba, non capisco cosa se ne faccia di quello scudetto. Io mi sta chiedendo, io me lo tengo stretto, per carità, è un mio sentimento, lo posso... per carità. Allora Córdoba non c'entra niente, io ho lottato quell'anno, ho lottato come tutti gli altri per arrivare al terzo posto e siete arrivati a... poi è stato assegnato a noi con grande giustizia per quello che abbiamo fatto in campo, e basta, tolto ad altri che non hanno fatto sportivamente. Tanto alla soluzione di questa disputa, come abbiamo ben capito, lo sottolineavamo anche prima, non arriveremo mai. Alessandro, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Intanto sono d'accordo con l'ascoltatore di prima, le partite sono belle, 10 partite tutta la domenica, che le dica Pardo, appassionato o no. Poi io sono, ahimè, un tifoso milanista, quindi questa considerazione che volevo fare, preferisco, nonostante sia anti-juventino, preferisco questa Juve che vince senza polemiche quasi tutte le partite, alla faccia della Roma e del Napoli, che anche Pardo lì a settembre diceva che il Napoli avrebbe vinto il campionato a mani basse, in realtà non è andata così. Grazie, saluti a tutti e due. No, non è andata così, me lo pensavo anch'io. Io in quella situazione mi trovavo d'accordo con Pierluigi, e diciamo aggiungevo che la Juventus non credeva in una possibilità di una rimonta juventina. Sì, non credo che fossimo i soli a non crederci, se parliamo di ottobre. Poi da un certo momento in poi, già da dicembre in poi, era abbastanza chiaro che la situazione stava girando. Il Napoli però, l'ho raccontato, ho avuto una specie di visione in occasione di Napoli Lazio, se non sbaglio era il 20 settembre, e mi dava la sensazione che la sua letta per andare lontano è andata lontanino, però è poi chiaro che tutto questo aiuto ci sarà poco da fare, e adesso rischia anche qualcosa per quanto riguarda il secondo posto. Sulle partite tutti insieme è punto di vista, per carità, però ti ripeto, secondo me a me piace vedere il calcio, quindi sono contento di questo tipo di sistema dove posso vedere più partite durante la settimana. In Spagna hanno aspettative ancora peggiore del nostro, in Inghilterra grosso modo hanno un tipo di situazione così simile alla nostra, in Germania e in Francia è uguale. In tutto il mondo è ormai così. Sì. Massimo Mauro, un nostro amico. Ciao Massimo. Ciao. Un piacere sentire tanto. Bene, buon temponi, come va? Buon temponi. Va piuttosto bene. Stiamo discutendo su orari di partite e feste in contumacia come quella della Juventus di ieri. Ho sentito fino a Galeone, che è una persona che cosa ne pensi di quello che ha detto? Sì, poi no, perché ho spento la radio perché sono arrivato in ufficio. Quindi... Cosa ne pensi di quello che ha detto Galeone? Sottoscrivo tutto. Tutto? Tutto, assolutamente, assolutamente. Con una postilla, se posso. Sì. Dopo 5 scudetti consecutivi, società e Allegri, a mio avviso si dovrebbe usare l'obiettivo di divertire un po' di più i tifosi juventini, senza dimenticare di vincere, ovviamente. Mm. Per esempio, si potrebbe dire che l'anno prossimo la Juve tenterà di giocare come ha fatto per 70 minuti a Monaco. Mm. Cioè, quindi, con quella filosofia. Stai dicendo, ecco, cose un po' sacchiane, eh? No. Considera che hanno vinto 5 scudetti consecutivi, beati loro. Quindi, come dire... so che può essere un po' presuntuoso, un po' ambizioso, un po' non lo so, però mi darei l'obiettivo di giocare meglio. Sì, anche perché è difficile immaginare un attacco alla Juventus anche l'anno prossimo, almeno sul fronte italiano. Io non ci riesco, poi vediamo che succede, vediamo. Carlo, dimmi. Sì, Pier. No, mi fai, perché insomma, Galeone ha detto delle cose abbastanza forti, ha detto che Allegri è molto meglio di Conte, poche parole, quindi volevo sapere se Massimo era d'accordo anche su questo, cioè sul fatto che Conte è un grande allenatore, per quello che ha detto Galeone. Pier, meglio o peggio, sì, onestamente Allegri, io possiamo parlare delle qualità di Conte e delle qualità di Allegri. Io devo dire che ieri ho ascoltato Allegri e ho ammirato la sua umiltà, la sua intelligenza, spiegare che nel momento difficile della Juve lui è stato bravo ad aspettare, a non essere impulsivo, a riflettere su quello che doveva fare. Credo che è una qualità straordinaria che deve avere un allenatore. E poi i risultati con 24 vittorie su 25, no? È un'impresa pazzesca, e quindi chapeau ad Allegri, voglio dire. Però dire che meglio o peggio uno o l'altro, onestamente, non però sono diversi come l'oro e il ferro, senza stare a dire che l'oro e il ferro, su questo ha ragione Galeone, sono due allenatori quasi opposti. Conte, no, mi piace, guarda, cambio proprio, cioè mi piacerebbe che si desse come obiettivo quello di pressare alto, quello di andare a... perché a me piace di più quella maniera lì, però per amor del cielo hanno dignità anche le altre vittorie. Io non sono come Sacchi che dico che il resto è che non vale, sì, no, il resto vale, vincere con le ripartenze è altrettanto bello e dignitoso. Certo. Mi piace di più quello di andare a pressare alto, come ha fatto la Juve col Bayern Monaco, a Monaco. Massimo, ti chiedo un attimo un istante di pazienza, come sappiamo il traffico, e poi rientriamo con le parole del signor Diego Armando Maradona. Tutti convocati. Tutti convocati. La Juve c'ha dei giocatori fenomenali dentro della Federazione Italiana e dentro dell'arbitraggio italiano. Non è nuovo, Gianni, non è nuovo. Hanno dei giocatori fantastici dentro della Federazione. Qualsiasi problema haya in campo, il giocatore della Juve ha ragione. Massimo Mauro, mi commenti queste parole del tuo ex compagno di squadra? Ma guarda, Diego è incommentabile a volte. Questa volta è una di quelle. Mm. Non credi che sia pericoloso, che questo sia un atteggiamento pericoloso per la crescita di chi vuole crescere, del Napoli, della Roma, di chi sta inseguendo la Juventus? Non credi che questo atteggiamento possa essere pericoloso? Perché molte volte abbiamo detto in questa stagione, insomma, noi abbiamo, io e Pierluigi almeno, abbiamo faticato a trovare trame di segni oscuri, trame di palazzo, sì, congiure, eccetera. Guarda, io mi viene in mente una cosa. Questi 5 scudetti, ci sono alcuni giocatori che hanno fatto la Serie B e non sono pochi. A Buffon, a Chiellini, c'era Del Piero, c'era Marchisio, c'era Pavel Nedved, che adesso è il vicepresidente. Hanno fatto la Serie B. Quindi, insomma, tutto il resto 12, 15, 17 punti di distacco non si spiegano con la meritocrazia, non con altro. Le parole di Maradona in questo caso sono inopportune, non riflettono quello che è successo negli ultimi 5 anni. Infatti, no, soprattutto secondo me quello dice Carlo, cioè chi sta crescendo, e il Napoli sta crescendo come società, sta crescendo come squadra, sta crescendo secondo me anche come ambiente, con pubblico, Massimo lo conosce benissimo, cioè secondo me molta maturità, molto entusiasmo, ma anche misura nel vivere la stagione a Napoli, quindi ci sono tutti segnali secondo me molto importanti di crescita. Questa roba secondo me non aiuta, mi permetto di dirlo con tutto il rispetto, l'amore per Maradona come calciatore e devo dire delle volte anche come pensatore, perché comunque è uomo stimolante, però questa roba qui mi sembra veramente che sia un passo indietro, perché dopo una stagione del genere, se il Napoli pensa di aver perso il campionato perché c'è il complotto arbitrale, secondo me questo lo pensano in molti, a Parlo. Questo lo pensano in molti. Il Napoli perde il campionato perché è una grande squadra. Dire una cosa, più forte di lei. Pier, posso dire una cosa? Dalla voce Diego non mi sembrava proprio, insomma, chi l'ha conosciuto. Io ho conosciuto una persona intelligente, una persona capace di stare a qualsiasi tavolo, a qualsiasi discussione. Insomma, quella voce non mi sembrava proprio del Maradona migliore, devo essere nelle migliori condizioni possibili. È il caso però di fare un applauso, poi vi saluto, è il caso di fare un applauso però anche a una società che è arrivata dopo il terremoto che conosciamo, che molti hanno detto ma questi sono dei ragazzini che giocano con il pallone, non sanno dove andare, buttano via un sacco di soldi, non sanno cosa fare, si ritrovano 5 anni dopo, alcuni anni dopo, perché i primi non è che la Juventus abbia indovinato tutto in questo periodo, ha commesso anche degli errori sul mercato, di costruzione, eccetera eccetera, ha forse però sbagliato meno degli altri. Sarebbe anche il caso di dire che è una dirigenza che ha lavorato benissimo. No, più che bene, perché poi venivano da 2 anni di Blanc, dove ci aveva capito poco, diciamo, in Italia, ed erano, insomma, spendevano soldi, li aveva buttati via. Basta ricordare un po' gli acquisti più importanti, da Diego a Felipe Melo, c'era un difensore centrale che adesso mi sfugge il nome, che povero si è anche infortunato poi. Song. Avevano fatto un po' Agnelli, nello scegliere prima Conte, poi Allegri, ha fatto 2 capolavori, ma poi il capolavoro è Paratici, il capolavoro è Marotta. Non vinci 5 scudetti consecutivi se non indovini la quasi totalità delle cose che hai fatto, insomma. Loro l'hanno fatto. Grazie Massimo, buon lavoro. Grazie a voi, grazie. Un abbraccio Massimo. Ciao. Mauro, come sempre. Ciao. Pier, invece, per chiudere, al Milan non stanno indovinando quasi niente in questo periodo. Oggi c'è addirittura la voce secondo cui potrebbe tornare Mihajlovic. Io non mi rifiuto di crederlo, perché ci deve essere un limite anche alla decenza. No, io mi rifiuto di crederlo e penso che è stato fatto... sai come la penso, insomma, non è che ho cambiato idea. Penso che Mihajlovic non abbia fatto bene. Chiaramente non era solo colpa sua, e queste 3 partite lo dimostrano che però chi non ha assolutamente la bacchetta magica per poter risolvere le cose subito. Credo che Berlusconi abbia voluto dare una possibilità, una scommessa ad altissimo rischio a Brocchi a 6 giornate dalla fine di questa stagione, perché tanto ormai lui non era solo per Mihajlovic, il rapporto si era rotto e quindi voleva giocarsi questa fish tutto sommato a basso rischio, per provare a vedere se in casa aveva un allenatore capace di portare delle cose nuove. È chiaro che i risultati non stanno arrivando. Dopo la prima vittoria sono arrivati 2 risultati sicuramente non di livello, però sarebbe assurdo adesso andare via Brocchi. È una scommessa che alla peggio costerà al Milan il 6° posto della finale di Coppa Italia. Questo secondo me è il... Io trovo se dovesse andare malissimo. Sì, se invece in queste 6 partite, queste 3 partite che rimangono più la finale di Coppa Italia, si dovessero vedere dei segni di qualcosa di diverso, dei germogli diversi, allora magari le cose potrebbero cambiare. Sicuramente, se siamo intellettualmente onesti, al di là della simpatia personale che ho fatto in Brocchi e del tentativo di giocare un calcio diverso, che si è visto come idea, come idea, però poi alla fine i risultati non stanno arrivando, e questa è una squadra che ieri ha fatto un passo indietro, certo, ulteriore, anche due, e quindi molto, ad oggi il bilancio è un po' del vento, non c'è discussione. Grazie Pierluigi, buon viaggio. No, senti, ma potresti rimanere in Inghilterra magari fino a Manchester United Leicester, eh? Pensa che roba, se il Leicester vincesse il titolo sul campo dello United e poi nell'ultima giornata potesse andare a fare la passerella a Stamford Bridge con il Chelsea. Cioè, meglio di così davvero mi viene da dire, meglio di così se muore. Beh, la passerella mi sembra che, anche perché poi il pareggio di ieri sera, che ci rende ovviamente tutti felici, il pareggio del Tottenham, dimostra che, io arrivo a dirti che forse l'Ester potrebbe addirittura non, cioè adesso ha bisogno di tre punti, ma forse non ha neanche bisogno di quelli, perché dietro fanno Chapanò, perché la verità è che questa parte della stagione, oltre ad aver vinto tantissime partite spendendo poco, essere inciampata praticamente soltanto però con guarda, due contro West Ham, le inseguitrici si sono continuamente suicidate. Sì, quindi, certo, però proprio per questo, dato che ne servono tre manca poco, e che Leicester gioca a Old Trafford, vedere Ranieri che vince il titolo lì, saremmo al top, direbbe qualcuno, qualche nostro amico da queste parti che conosciamo. Buon viaggio, buon lavoro, ci sentiamo domani. Ciao Piero. Ci fermiamo per il traffico, poi torniamo. No, per il traffico, scusate, per il GR. Stavo pensando che dopo avremo un traffico anche di ospiti, perché parleremo ancora un pizzico di moto, ma soprattutto avremo le pagelle e poi avremo le vostre voci. 800 24 00 24, il numero verde. Finisce qua, senza recupero, primo tempo. Gran spettacolo. Tutti convocati. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS. E in video su radio24.it e su rds.it. Si ricomincia! Convocati. Allora, prendiamoci un paio di giri di riposo sulle chiacchiere di Juventus Calcio e dintorni, con una telefonata che, lo dichiaro subito, è biecamente personale e di interesse privato il mio, che voglio chiedere a Guido Meda se mi invita a Top Gear l'anno prossimo. Ridi. Va bene, accolta, però guarda che devi stare in piedi un bel po' di ore, eh. No, questo non è un problema. Top Gear sta in piedi. Sì, il pubblico sta in piedi. Secondo me potremmo fare una cosa più carina, già che parliamo solo io e te, senza pensare. Appunto. No, ma io ho tirato un trappolone micidiale. Certo, vieni ad una esterna che ti diverti, sì? Anche lì. Certo vengo. Ufficiale, vengo l'anno prossimo, Va bene. Prossima va bene. Edizione. Ti sei divertito? Va bene. Moltissimissimi, come un bambino al parco giochi, eh? Bravo, ma sì, perché alla fine quelli lì sono i giocattoli nostri. È stato divertente, sai cosa? Nel casino, perché non è una produzione facile Top Gear, specie quando hai, come dicono quelli bravi, il benchmark del riferimento del Top Gear inglese, no? Tu lo devi mettere nel conto che gli italiani diranno però gli inglesi lo facevano meglio. Grazie, io non sono neanche Cassano, mi state paragonando a Messi, dateci il tempo di fare un allenamento. Però poi invece abbiamo saputo, scoperto e capito che al pubblico, quello, come dire, delle famiglie, è piaciuto un sacco, quelli che non si fanno troppe menate se sei preciso sul funzionamento del differenziale o dello sterzo. No, lo so perfettamente. Si sono divertiti da parte. Anche con Bastiani e Valsecchi, che sono stati due bei compagni di scorribande, Guarda, straordinari, devo dire, sono stati, nel senso che avevamo veramente tre modi di comportarci, di relazionarci diversi, ma alla fine ci è voluto un po', devo dire, per capirci, però poi alla fine compagni di scuola veramente. Senti, qual è la cosa più banale, chiederlo, però la cosa più divertente che hai fatto? La cosa più divertente che ho fatto, secondo me, sembrerà banale anche la risposta, ma il servizio che è andato in onda nella puntata di settimana scorsa sulle auto due volumi degli anni 80, quindi la Renault 5, la Golf GT e la Peugeot 205, è stato quello in cui siamo veramente tornati bambini, perché io e Bastiani ci avevamo tra le mani le macchine che sognavamo quando avevamo 18-20 anni. E abbiamo detto, adesso facciamo come ci pare. Quello che non abbiamo fatto allora, vaffanculo, lo facciamo adesso. E l'abbiamo fatto. Stasera? E quello è stato. Stasera si chiude? Stasera divertente anche stasera, però, perché sì, stasera si chiude con grande... Con un po' di dispiacere, però insomma, 6 puntate erano programmate, 6 abbiamo fatto. Quindi così è stato un test molto felice, però che durava solo 6 puntate. Stasera destinazione Marocco. Abbiamo dato a Davide Valsecchi un grande privilegio, che è quello di stare alcuni giorni e alcune notti da solo in un angolino del deserto del Sahara, all'inizio del deserto del Sahara, tra due dune meravigliose, a guardare le stelle, a meditare su... Vabbè, basta così perché l'invidia sta raggiungendo dei livelli insopportabili. Senso della vita, capito? Il problema è che tutto questo l'abbiamo fatto dicendogli che saremmo arrivati entro 24 ore e non gli abbiamo lasciato né da bere né da mangiare. Ah. Per cui ha meditato anche in maniera, secondo me, piuttosto ascetica. E gli fa bene, guarda, amico mio, che gli fa bene. Tu dici... Poi noi lo siamo chiamo. Concessi qualche piccolo lusso e qualche piccolo agio, bastardi dentro, per andare a recuperarlo. Bastardi dentro, come al solito. Vabbè, è giovane, si deve far su. Dimmi un'ultima cosa invece su quello che hai raccontato la scorsa domenica. L'ho chiesto a Pernat, l'ho chiesto a Roberto Unger, l'ho chiesto a un sacco di gente. È un sole all'improvviso o no? Cos'è? Scusa, sole all'improvviso, sole un giallo 46. No. Sole all'improvviso, calcolando che c'ha 20 anni di carriera alle spalle, direi che all'improvviso no. No, ma dico, parlo di adesso, parlo di questa stagione. Io sono tra quelli che ha sempre pensato che quel sole giallo lì in realtà non si sia mai spento. Cioè, sono abituato ad avere a che fare con un Rossi che passa attraverso le bufere e ne viene sempre fuori stra in piedi. Domenica abbiamo avuto la prova provata e scientifica che questo ha ancora una fame vorace, feroce, di vittoria, di rivincita, e ha uno smalto in integrità fisica veramente sorprendenti, per cui è un bel segnale all'inizio della stagione, all'inizio di una stagione che per lui non era partita alla grandissima. Poi figurati, conoscendolo, come dire, il gusto e la carica che gli dà a farlo a casa degli spagnoli. Non l'ha neanche nascosto, ma infatti scorso. Guarda che l'immagine del podio è stata bella quasi quanto la gara, posso dirti, non ti offendere. Non so se è stata bella, diciamo che la gara in sé per sé non è stata neanche tra le più belle, no? È stata persino un po' noiosa se la vuoi vedere dal punto di vista dello spettacolo, perché ha preso, è andato via e ha vinto alla Lorenzo, per cui abbiamo vissuto gare più divertenti, però era una gara ricchissima di significati. Ecco, questo è bello, cioè è bello poter dire che questo qua ha 37 anni. Guarda, ho detto delle cose paradossali oggi e tra mezz'ora vado a ripeterle in studio a Sky. Io in questo approccio che ha Rossi nei confronti del moto mondiale ci vedo persino dell'umiltà. Cioè, questo qua non ha mai smesso di studiare e di imparare, cioè non si è mai soffermato a dire io sono Rossi, verissimo, io ho vinto 9 verissimo. Mondiali, ho vinto 113 gare e vado avanti di rendita. Questo qua sta nel box fino a notte quando gli altri hanno già finito, perché sa che questi sono più giovani e se non se li studia e non impara tutto non li frega più. Certo. Questo secondo me è l'aspetto bello. Beh, quante volte ti sei sentito dire anche da Graziano che ha imparato a guidare sulla base dello stile di Marquez, cioè te lo ripete tutte le volte, dici ma come Rossi che fa il verso del ragazzino? Certo. Sì. Ed è uno solo degli svariati cambiamenti a cui si è obbligato e l'ha obbligato l'evoluzione in questi 20 anni di carriera. Grazie Guido. Chapeau, davvero. Chapeau, grazie. Mi tengo in forma per la prossima edizione di Top Gear. Promesso davanti a qualche milione di italiani, quindi è fatto. E prega il Dio delle motociclette che la Ducati venga fuori dai suoi guai. Non ho grandi dubbi, sai. Speriamo. Non ho grandi dubbi. Perché io ci ho avuto un po' paura invece domenica. Anch'io, ma non ho grandi dubbi, sono abbastanza fiducioso. Ciao Guido. Allora, ti abbraccio forte. Ciao Guido. Questo Guido Meda, questo Gianfranco, provincia di Bergamo, buongiorno. Gianfranco da Roma, buongiorno. No, niente. Dario un c'è. Dario da Treviglio, buongiorno. Dario da Treviglio c'è. Ah, va bene, grazie, perfetto. Grazie per avermi convocato. Grazie a lei. È stato felice di aver sentito Guido Meda che parla di Valentino Rossi. Sì, io pure. Una domanda. Io ho visto il Milan, sono milanista da una vita. Ma io ieri li ho visti, mi sembrava che camminassero invece che corressero. Non riesco a concepire una cosa, ma sono gli allenatori che sono incapaci o sono i giocatori che sono lazzaroni, scusi il termine franco? Bueno, questa è quella domanda che le faccio, e poi auguri all'Ester che vinca, che sono felicissimo per Ranieri. Tutto qua, buona giornata e grazie. Grazie a lei. Giocatori lazzaroni non credo proprio, perché i giocatori non, quando sento dire si impegnano poco, non ci tengono, eccetera eccetera, non ci credo mai, anche perché comunque i giocatori mettono in gioco il loro futuro, così come chiunque faccia una professione ad alto livello, no? Se non giochi bene l'anno dopo non vieni confermato, non hai un contratto particolarmente ricco, eccetera. Quello che credo io è che al Milan abbiano combinato un terribile casino nell'esonerare a quest'ora della stagione Sinisa Mihajlovic, che non ha fatto bene, e su questo possiamo anche essere tutti d'accordo. Possiamo discutere su quanti punti mancassero in classifica al Milan prima dell'esonero di Mihajlovic. C'è chi dice 10, ad esempio Pardo, secondo me qualcuno in meno. Il Milan è una squadra con poca barra pochissima qualità, soprattutto a centrocampo, con una difesa certamente futuribile, e questa è la migliore notizia della stagione, con un attacco che si è retto su Bacca fino a che Bacca ne ha avuta, poi adesso sono in due mesi ha segnato due gol, se non ricordo male. E allora dov'hai? Balotelli scomparso, Boateng, ripeto, ex giocatore ormai da 2-3 stagioni. Dove puoi andare con una squadra così? E il cambio di allenatore ha, secondo me, aumentato la frustrazione, il casino, l'impotenza di una squadra che non è una squadra di alto livello. Gianfranco, vediamo se riusciamo a parlarci. Buongiorno. Buongiorno a lei. Dunque, io sono romanista, è inutile nasconderlo. E poi vorrei dire che la Juventus è meritata il quinto scudetto, anche se a mio parere, forse sbaglio, ma parere anche di tutto un certo ambiente, qualche aiutino anche quest'anno ce l'ha avuto, ma non nel senso di dare un rigore che non c'era, è l'atteggiamento degli arbitri quando giocano e arbitrano la Juventus. Quindi lei mi ha capito perfettamente, non mi faccia scendere in particolari. No, sarebbe il caso di farlo, ma per ragioni di tempo facciamo finta di aver capito. Un'altra cosa che non... Scusi, però Gianfranco, la Roma non ha avuto nulla a favore, il Napoli non ha avuto nulla a favore. Poi lei a che cosa si riferisce in particolare? Al fatto che i giocatori gli arbitri vengono intimoriti dai giocatori della Juventus? No, intimoriti, non mi posso spiegare, cioè voglio dire, gli arbitri che in particolare, poi non parliamo di Rizzoli e altri due, gli arbitri sono condizionati, senza che nessuno lo scriva sul giornale, gli telefoni a casa, sono condizionati dal fatto che arbitrano la Juventus. Quindi se c'è un piccolo fallito, il fallo si riconosce, mentre invece nelle altre squadre, parlo di Roma, Napoli, eccetera, nelle altre squadre il falletto viene segnalato. Guardi, mi scusi, ma devo andare avanti, se vuole riprendiamo il discorso un'altra volta. Rimango su questo punto, io non credo che gli arbitri non siano condizionati invece dall'arbitrare in Napoli, la Roma, che sono ormai grandi squadre, il Milan, l'Inter. Insomma, non raccontatemi che sono condizionati solo dalle maglie a strisce bianconere, che non sono quelle dell'Udinese. Magari lì possono essere condizionati, ma non diciamo che ad esempio il Napoli e la Roma sono piccole squadre, perché non lo sono più. Maestro Marino Bartoletti, buongiorno. Ciao Carlo, buongiorno. Come stai? Buongiorno. Pronto per pagellare? Mi hai tolto dalle grinfie, Guido Meda, ridammelo per piacere, ridammelo. Lo rivuoi? La prima volta che ho visto Guido Meda in vita mia era vestito da ufficiale di cavalleria con tanto di stivaloni, e ciò nonostante l'ho assunto. Davvero? Correva l'anno 1990, ma quante ne ho io sulla pedina penale, ho assunto persino te. Ne hai tante, hai tantissimi peccati da espiare, caro Marino Bartoletti. Allora, il bene che voglio Radio 24, sono qua per le mie pagelle, ho appena appreso ancora una volta che il nostro è un paese di santi, navigatori, poeti e congiurati. È chiaro, soprattutto congiurati. Allora, lo scudetto da Juventus secondo me ha una immagine, un nome, cognome, una faccia che tutti conosciamo benissimo, ed è quella di Gigi Buffon. con la forza, secondo me, di un gruppo di lavoro stupendo e responsabile, di una società forte che nei momenti opportuni ci ha spalleggiato o, tra virgolette, ci ha frustato. Credo che siamo arrivati a compiere un'impresa veramente difficile. Mentre l'anno scorso dicevo che lo scudetto era capolavoro di Allegri, anche non che questo non lo sia, mi sento di dire che il principale protagonista è il 38enne portiere della Juventus e della Nazionale. Beh, sai Carlo, siamo ai confini della tautologia, come direbbe Biscardi. Sì. Buffone veramente ai confini della creatura mitologica, come lo è Totti, come lo è Rossi. Parliamo di tre ragazzi che hanno un'età media di 38 anni abbondanti. Sì. È vero, effettivamente è vero. Anche se c'è una cosa che, secondo me, ieri, fatto salvo tutto quello che di bello possiamo dire di questo scudetto juventino, cito testualmente quello che ha scritto un giornale sportivo: la Juve vince perché è più forte, la Juve vince perché ha più carattere, la Juve vince perché è più organizzata, la Juve vince perché ha uno stadio sempre pieno, la Juve vince perché non si lamenta, la Juve vince perché insegue la realtà e non i sogni, la Juve vince perché dimentica di aver vinto. Proprio per questo ieri almeno Buffon non doveva indossare quella maglia col numero 34 sulla piena. D'accordissimo con te, l'ho detto nel anche prima. Nel giorno della gloria bisogna essere signori fino in fondo. Ma lì non c'è soluzione, Marino. Cioè, possiamo levarci anche solo il sogno, l'illusione che ci possa essere una soluzione. Sono d'accordo con te, tanto che l'ho sottolineato prima con quel tifosaccio di Zuliani, no? Cioè, una cosa inelegante è stata la divisa dello scudetto. Ma questa poi tregua, Valentino potrebbe mettersi il numero 10 sulla schiena, o il Torino, o il Bologna avere 8 sulle bandiere, o la Lazio avere il 3, perché nel 15, 1915, non è stato consentito di disputare la finale dello scudetto. Sarebbe bello, culturalmente bello, se potessimo un passo avanti. Comunque Buffon, 10 l'Oden. Non 10 l'Oden, sì. Darei qualcosa in meno invece alla prima pagina di Tutto Sport di oggi. Zitti tutti, anche lì. 30, 31, 32, 33, 34. Qui tu ti astieni, io do molto basso. Facciamo così. Allora, anche perché poi il giornale che ho citato prima è Tutto Sport, praticamente sì, corretto in quello che è stato scritto, poi un po' incoerente, come dire, nel titolo. Allora, quelle che hanno perso per modo di dire, sportivamente parlando, Roma e Napoli, Spalletti. Impressionante, non lo so, bisognerebbe giocarci contro due o tre volte per vedere, però... ha cambiato uomini, chiunque abbia cambiato, Allegri l'ha sempre messi dentro in grandissima condizione, ha cambiato modulo perché poi ha giocato con la difesa differente, qualsiasi cosa abbia proposto è stato recepito e gli è stato dato poi merito di aver scelto così da quella squadra lì, per cui secondo me sono fortissimi, non è facile colmare il gap. Dice cose giuste, secondo me, Spalletti. Ma sì, guarda, il talento dei vinti aumenta la gloria dei vincitori. Non so chi l'ha detto, lo dico io. Insomma, credo che quello che hanno fatto Roma e anche Napoli quest'anno aumenti, se possibile, la gloria dello scudetto juventino. Devo dire che sì, c'è il rischio che il campionato italiano si francesizzi, per carità, perché non so chi fermerà la Juventus nei prossimi anni, però insomma il podio è strepitoso, il podio è fatto di tre squadre estremamente vive, questo è un piccolo bicchiere mezzo pieno a cui può guardare il calcio italiano, almeno il campionato italiano. Poi se vuoi apriamo il file Totti, ma questo ci porterebbe già alla trasmissione di domani. No, io vorrei aprire il file Totti solo con una domanda che mi ronza nel cervello da tempo e vado a ripeterla in giro anche in redazione come un rincoglionito. Cioè, perché, mi spieghi perché Francesco Totti, che è Francesco Totti, deve accettare di vivere da sopportato? Questa è una bellissima domanda, devo dire. Ne abbiamo già parlato, i grandi tenori, i grandi artisti, i grandi sportivi devono avere perfettamente cosciente il momento in cui è il momento di mollare. Devo dire che però Totti finisce con lo smentire se stesso, perché quello che ha fatto nelle ultime tre partite, non tanto ieri che è stato un pochino mitizzato, ma in quelle precedenti, effettivamente finisce con lo smentire ogni forma di razionalità. Prima parlavamo di creatura mitologica, tutti pensavamo che avesse Totti nell'età il tallone di Achille. Beh, più forte di Achille, perché evidentemente ha i talloni ancora più forti che lo portano verso l'immortalità. certamente, ripeto, il grande campione, il grande artista, il grande tenore, deve essere lui quello che decide che è arrivato il momento. Bravo, ma poi devi avere l'orgoglio di dire: ragazzi, non mi fate più cantare all'arena, non mi fate più cantare alla Scala, mi mettete a fare il coro, mi mettete in fondo al coro, mandateci voi in fondo al coro. Sì, c'è una via di mezzo. Pavarotti aveva inventato Pavarotti e Friends, no? Faceva, oppure i tre tenori in cui cantava le canzoni. Sì. Io temo che, confondendo un po' l'orgoglio col realismo, ma anche quello che pensa di essere ancora, e forse Totti vorrebbe ancora vivere una stagione nella quale la Roma, chi lo sa, potrebbe vincere uno scudetto, chi lo sa, dopodiché però ci sarebbe la stagione in cui, chi lo sa, vorrebbe partecipare alla Coppa dei Campioni, insomma non si ferma più, invece in questo momento è lui che deve essere il padrone del proprio destino, fra l'altro senza confondere le idee a tutti coloro che si azzannano, noi compresi, su quello che sta succedendo. Altro giro, altro regalo. Allora ti faccio sentire quest'uomo che è il capro espiatorio di una situazione che ormai ha raggiunto vette di comicità. Quest'uomo è Christian Brocchi. È un atteggiamento comunque sbagliato, soprattutto nel secondo tempo, da parte del Milan, che a un certo punto ha schiacciato off e purtroppo non è più riuscito a giocare da squadra. Nei momenti di difficoltà bisogna rimanere uniti, bisogna giocare insieme, bisogna aiutarsi, allora riesci a venire fuori dalle difficoltà. Se invece non lo fai, giochi singolarmente, incominciano gli spazi ad aprirsi, incominciano le difficoltà ad aumentare, non trovi più i tempi e succede quello che è successo. Mario, ti chiedo un voto, non a Brocchi ovviamente perché sarebbe folle e ingeneroso, ma la situazione. Guarda, Milan come società merita un 4 di stima per tutto quello che ha rappresentato e rappresenta ancora per la storia del calcio italiano, però effettivamente siamo ormai alle comiche, certe cose lasciamole fare ad altri presidenti di cui non facciamo il nome in questo momento, effettivamente, però soli cogliamo una squadra come questa, cioè come il Milan, quello che ha rappresentato la gloria del calcio italiano per 20 anni consecutivi, perde la testa a questi livelli, vuol dire che insomma non ce la possiamo prendere con Brocchi, che è come Calimero e se la prendono, esatto, tutti con lui perché è piccolo e rosso-nero. Bisogna capire in che direzione puntare la bussola con molto realismo, ormai si va soltanto per tentativi, questo non appartiene né alla storia, né alla tradizione, né alla gloria del Milan. Un'ultima cosa, non riguarda il calcio ma quello di cui abbiamo parlato prima con Guido Meda, giallo 46. La cosa più bella è stata la gara. Sulla griglia mio meccanico Brent mi ha detto: primo dalla prima all'ultima curva. E io l'ho guardato e gli ho detto: però potrebbe essere anche una buona idea. E il dar gusto, quella cosa che mi ha dato più gusto è stato quando li sentivo sempre un pelo più lontani, capito? E dicevo: ah, che bello. Curioso, curioso tutto quanto. Come Totti, Buffon, lo so, Totti, Buffon e Valentino Rossi, tutti praticamente collegati in un lasso temporale strettissimo. Guarda, tu prima ti sei regalato la telefonata con Meda, io mi sono regalato la telefonata del lunedì, in questo caso del martedì, con Graziano Rossi, sì, che come sai è la persona più intelligente che io conosca nel mondo dello sport, ma ha rivelato il segreto di questa vittoria, perché pochi giorni prima di andare a Jerez sono andati a mangiare tutti assieme dalla Maria a Novillara, dove fanno le tagliatelle con i fagioli, e ha invitato tutti Valentino, sai che in quella famiglia si è abbastanza parsimoniosi, no? Allora Graziano si chiedeva cosa vorrei, invece non voleva niente, si vede che era già carico, però dato che sono parsimonioso ho detto: ma vi siete sentiti almeno? Dice: sì, mi ha scritto un SMS con scritto grande vittoria dopo la gara e una con bene dopo le prove, si aspetta un messaggio anche oggi. Ci credi? Non so, perché dipende da quanto costano gli SMS. No, ma al di là degli SMS, ci credi con le lettere maiuscole? Scritto tutto, ci credo, in grande. Ci credo, sai, si parlava prima di esseri mitologici. Cioè, ti ricordi quando i motociclisti venivano definiti i centauri? Sì, come no. Valentino è veramente un essere mitologico, perché ci ha abituato a smentirci, e Dio lo benedica. Io comincerò a crederci tra un po', se mi permetti, mi tengo la mia. A me fa vero, te l'ho sempre detto, il fatto che quando aveva un anno mi fece la pipì addosso e purtroppo non ho conservato quei pantaloni. se no, sai quanti SMS, quante cene dalla Maria? Grazie Marino, alla prossima. Un abbraccio, grazie a te. Abbraccio. Grazie a Marino Bartoletti, gentile dall'Aquila e poi tutti a casa. Sì. Dica. Innanzitutto da interista, chapeau alla Juventus. Bisogna riconoscere una grande società, dei grandi giocatori, dei grandi dirigenti, e questo fa onore a tutto il calcio italiano. Lo dico da interista e lo dico convinto, società che fornisce sempre giocatori importanti anche alla nazionale. un solo punto negativo che voglio dire agli addetti ai lavori, sempre servili con chi ha il potere, con chi comanda e con i più forti. Questo ci tengo a dirlo. Ma a chi si riferisce anche, in particolare? A tutti quei giornalisti, quei dirigenti o quelle società che comunque vogliono stare sempre dalla parte del più forte, sì, ma guardi, e non dalla parte dei più giusti. Gentile, da questo punto, da questo, io con tutta la poca presunzione, la presunzione del caso, mi chiamo fuori da questo e chiamo fuori anche da tutto questo Pardo e Giorgio De Luca, così saluto già il nostro autore Gianmarco Ferronato in regia, Federico Bini in redazione e tutti quelli che abitualmente parlano a questi microfoni. Cioè noi da questo ci chiamiamo fuori, poi per gli altri non rispondiamo, fate voi. Grazie, ci sentiamo domani alle 2, ciao. Guaglio, buon pomeriggio a tutti.